America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. In this regard, the proof of the pudding will be in our actions. Talk is cheap. What is key is that we take the appropriate policy steps in a timely manner. William Dudley, il presidente della Federal Reserve di New York e uno dei governatori permanenti nel Consiglio della Federal Reserve a Washington, ebbene ieri ha lanciato durante un convegno dedicato alle problematiche transatlantiche qui a New York un affondo contro le lentezze che pervadono il processo per formare l'unione bancaria in Europa. Ecco, è un affondo, devo dire, che è soprattutto diretto contro la Germania, una Germania che chiede prudenza, chiede tempi più lunghi. Ricordiamolo, secondo la Germania, per poter procedere soprattutto nella protezione dei depositi, occorrerà una modifica del trattato europeo. Questo richiederebbe tempi biblici e invece c'è una forte corrente di pensiero all'interno dell'Europa che chiede un intervento più rapido attraverso una direttiva della Commissione. Perché Dudley è entrato così a gamba tesa in questo dibattito subito dopo le riunioni del fondo? Intanto perché tutti chiedono la crescita e secondo Dudley un'unione bancaria europea completa favorirà la crescita. E che cosa significa di rimando? Che le aziende italiane potranno ottenere dei prestiti dalle loro banche a dei tassi competitivi con quelli tedeschi. È un po' una rivoluzione, insomma non mi sorprende che la Germania resista a questo sviluppo, perché riporterebbe a un livello competitivo molto più simile le attività delle aziende italiane vis-à-vis quelle delle aziende tedesche. Quali sono i punti di forza di questo passaggio? Ecco, Dudley li elenca in modo preciso. Allora, intanto dimostrerà un impegno verso un'integrazione più profonda, darà più credibilità all'idea che l'unione monetaria è irriversibile. Poi un euro sarà un euro in qualunque parte d'Europa. Questo vuol dire che ci sarà una caduta della propensione dei depositanti a trasferire i loro fondi da paesi periferici a paesi centrali. Ecco, io ieri ho incontrato a New York Fabrizio Saccomanni, direttore generale della Banca d'Italia, gli ho chiesto qual è la sua reazione a queste posizioni di Dudley della Federal Reserve di New York. Ecco, sentiamo come mi risponde. Ma devo dire che anche negli incontri che ho avuto a Washington e anche qui a New York, effettivamente ho constatato un grande interesse da parte della comunità finanziaria americana per, diciamo, il progetto di unione bancaria europea, perché lo vedono come un progetto che potrebbe dare una spinta forte a dissipare quei dubbi che ancora rimangono un po' da questa parte dell'Atlantico sulla solidità dei sistemi bancari europei, sul grado di efficacia delle vigilanze di carattere nazionale, sull'ammontare di sofferenze che temono ci siano nascoste nei bilanci bancari. Quindi vedono come il progetto di unione bancaria di vigilanza europea come lo strumento che potrebbe facilitare il ritorno anche delle banche europee sui mercati internazionali, facilitare la raccolta, ridurre gli spread che esse pagano ancora sui mercati internazionali e quindi facilitare poi l'attività di prestito all'interno dei singoli paesi e quindi anche alle imprese, naturalmente. Ecco, perché c'è un problema di crescita e la cosa che mi ha colpito è l'idea di Dudley che questa unione bancaria potrà aiutare la crescita, come diceva lei, intanto perché rassicura i mercati internazionali sulla tenuta dell'euro e evita sperequazioni fra paesi periferici come Italia e Spagna e paesi più centrali e dunque critica o cerca di spingere la Germania per far sì che si esca da questo dualismo, dobbiamo rifare il trattato oppure basta una direttiva europea. Insomma, secondo lei, nel contesto di quelli che sono anche poi storicamente gli impegni di lo Scabos, la nuova architettura europea, in che tempi ci si potrebbe muovere se si procede con una direttiva? E secondo lei è più importante la direttiva del rifacimento del trattato? Ma io credo che il progetto europeo aveva esattamente questi scopi che il presidente Dudley riconosce e ci fa piacere che li condivida anche lui. Io credo che il progetto europeo per quanto riguarda la vigilanza bancaria europea è oramai in dirittura d'arrivo. e anche alla recente riunione dell'Ecofin di Dublino c'è l'intesa da parte di tutti che questa vigilanza europea si può fare sulla base del trattato vigente, non richiede una modifica dei trattati e diciamo verrà approvata con un regolamento, ovvero sia con uno strumento giuridico che è immediatamente efficace nei singoli paesi, non richiede ratifiche parlamentari o trasposizioni nella legislazione nazionale. Diverso è il caso per quanto riguarda le altre componenti dell'unione bancaria, e cioè un meccanismo di risoluzione delle crisi, che vuol dire anche un meccanismo di ripartizione degli eventuali perdite che banche in crisi dovessero sostenere, e il meccanismo di garanzia dei depositi. Su questi due, in effetti, il trattato di Maastricht non contiene delle specifiche norme. La Commissione europea ritiene che su questi fronti si possa intervenire con delle direttive, e credo che ci sia, sono già al lavoro su direttive che diciamo dovrebbero rendere possibile questa cosa. Dipenderà dal grado di coinvolgimento di risorse finanziarie a livello europeo, si riterrà possibile agire solo con lo strumento della direttiva, o se quindi se c'è soltanto un coordinamento e non un utilizzo di fondi europei, mentre invece temo che se si va verso questa cosa, forse l'insistenza da parte tedesca per una modifica del trattato possa continuare. Peraltro oggi esistono procedure di modifica del trattato che non sono così complesse come quelle di una volta, e quindi diciamo la cosa di per sé potrebbe non essere un ritardo, però è chiaro che noi come autorità italiane abbiamo sostenuto la unitarietà del progetto nelle sue tre componenti: vigilanza, risoluzione delle crisi e garanzia dei depositi. Ecco, c'è una cosa che mi ha colpito di nuovo in Dudley, nella dichiarazione di Dudley, perché dice: la Germania cresce a ritmi di quasi di pieno potenziale, altri paesi europei no. La crescita, insomma, per l'America diventa importante, ma una crescita distribuita, una crescita per tutti. Ecco, dal suo punto di vista, quanto è importante focalizzarsi e concentrarsi sul rilancio della crescita nel nostro paese? Ma evidentemente l'obiettivo del rilancio della crescita è un obiettivo assolutamente prioritario, e credo che diciamo la ragione per cui ha avuto come dire meno attenzione era che purtroppo perlomeno nella prima metà dell'anno scorso l'esigenza di dare segnali forti di consolidamento fiscale era assolutamente prioritaria. Io credo che ci sono ora le premesse per rilanciare un'attività di crescita sia a livello nazionale ma anche a livello europeo, tramite anche diciamo l'utilizzo di fondi comunitari presso la Banca Europea degli Investimenti, lo stesso bilancio comunitario e altri strumenti di questo genere. È chiaro che il progetto di unione bancaria, diciamo, una volta realizzato prenderà del tempo per avere questi effetti che Dudley richiama, ma certamente, ripeto, il livellamento degli spread a livello europeo, la possibilità che le imprese si possano indebitare, ricorrere a strumenti di capitale a condizioni uniformi, certamente è un fattore di forte promozione della crescita. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Great Gatsby, abbiamo parlato di finanza, di banche, parliamo di questo film interpretato da Leonardo DiCaprio. Ieri è stato rilasciato il primo single, Lana Del Rey, Young and Beautiful. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!